il rovescio della medaglia, no? Per esempio, per raggiungere a questo fatto che hanno regalato, fra virgolette, l'energia, sì. Ma questo surplus nasce proprio dal fatto che il Cile non conta con, diciamo, delle autostrade per trasmettere poi l'energia ad altre regioni, ed è per questo motivo che in questa regione in particolare del nord poi è avanzata, perché non avevano la capacità per trasmetterla ad altre regioni che ne avevano bisogno anche loro, ovviamente. Se è un surplus che non è arrivato a Santiago né al sud del paese. Comunque, insomma, complimenti, perché è un ottimo risultato. Prendiamo appunti anche per questa storia che viene dal Cile, ci fa piacere. Da quanti anni sei in Italia, certo, Mariana? Da 13. Beh, insomma, quindi ormai sei mezza italiana d'adozione. Grazie per essere stata con noi, Mariana Diaz Vasquez. Grazie mille. Lei è corrispondente per la TV cilena Canal 13 e ci ha raccontato di questo boom di energie rinnovabili in questo paese, energia solare soprattutto, tanto che ne hanno troppa e tanto regalano. Che a Santiago del Cile hanno fatto una metropolitana, stanno costruendo una metropolitana, vero, che giusto, per il 60% andrà solamente a energia rinnovabile, che trovo bella una cosa storia, straordinaria. Bellissima storia. Buongiorno cari ascoltatori, da Alessio Maurizi. E buongiorno da Carlo Gabardini. Con noi Luca Mercalli, buongiorno climatologo. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno. Ben ritrovato, è un grande piacere avere con noi Luca Mercalli, anche perché sì, ce l'abbiamo una bella notizia, io credo, almeno adesso lui ce la spiegherà alla grande, perché abbiamo un record il 2015 di investimenti e crescita nelle energie rinnovabili e l'Italia fa la sua parte. Mercalli, il mondo sta cambiando davvero? È la volta buona, come direbbe il nostro... Sta sicuramente cambiando e ci sono questi segnali molto incoraggianti sulla rapidità con la quale le energie rinnovabili nuove, le nuove energie rinnovabili sono soprattutto il solare e l'eolico, perché consideriamo energie rinnovabili anche l'idroelettrico, ma insomma questo diciamo che ha 100 anni di esperienza sulle spalle ed ha una espansione più ridotta. Invece solare ed eolico sono la grande novità applicativa dell'ultimo decennio e si pensava che procedessero in maniera più lenta, invece ormai in alcuni paesi il costo del kilowattora prodotto con queste nuove forme di energia rinnovabile ormai si avvicina a quello delle fonti fossili tradizionali, quindi questa è sicuramente quindi quando i costi si scendono, esatto, vuol dire che siamo sulla strada giusta. Tra l'altro è anche interessante vedere che a trainare questo anno boom delle energie rinnovabili è la Cina, seguita dagli Stati Uniti, cioè paesi ai quali abbiamo fino ad ora imputato proprio la mancata accelerazione, no? Invece adesso si viaggia. Si viaggia, però attenzione, perché insomma non è tutta energia quella che luccica, diciamo. Il fatto è che le energie rinnovabili, se le guardiamo sul totale dell'energia primaria usata nel mondo, sono ancora una frazione di pochi punti percentuali, perché quando guardiamo questi bei numeri ci rifacciamo in genere solo la parte di energia elettrica, che a sua volta è una parte relativamente modesta dell'energia che si usa in tutto il mondo. Non dimentichiamoci che gran parte del petrolio viene usato per i trasporti, che poi navi, aerei, insomma, non vanno con l'energia elettrica e meno che mai con quella solare o eolica, salvo la mia macchina che riesce già ad andare a energia solare perché ho l'auto elettrica e la carico con i pannelli fotovoltaici. Pensavo che avesse qualcuno che spingeva, però quello non vale. No, neanche con i pedali, non vale. Mercalli, ma l'auto elettrica in Italia si compra da regolare concessionario o bisogna fare delle trafile particolari? Si compra da regolare concessionario, ma ha due grossi problemi. Il primo è che costa ancora cara rispetto a quello che ti dà. Cioè, alla fine l'auto elettrica oggi è un'auto che permette di fare circa 100 km con una carica. Quindi da usare in città? Sì, da usare in città. È la classica city car, esco al mattino, torno la sera e ho sufficienti chilometri per fare il classico pendolarismo. Ma se non trovo una presa sulla strada? Sono a piedi. Ecco. Però, diciamo, ti fermi, bussi e ti fai aprire una presa. Giusto, Ale. Con anticipo. No, il secondo problema è che sono molto care. Il secondo è proprio questo, cioè il fatto che comunque non c'è ancora un'infrastruttura di ricarica diffusa. Ma torniamo un attimo all'energia rinnovabile, perché invece il grosso problema dell'energia rinnovabile, oltre alla piccola frazione che ricoprono oggi come elettricità e che sono intermittenti. Quindi un po' il grande nodo da risolvere, dove bisogna fare i veri investimenti, è lo stoccaggio dell'energia, perché con il solare potremo produrre, soprattutto nei deserti, tutta l'energia di cui abbiamo bisogno, solo che c'è di giorno e non c'è di notte. Oggi le energie nuove rinnovabili viaggiano bene quando sono integrate in una rete già esistente e coprono una fetta anche rilevante. In Italia ormai tra idroelettrico e nuove forme di energia rinnovabile siamo attorno al 40%. Attenzione, perché sì, c'è un grosso problema sull'Italia. Noi siamo partiti sì, benissimo nel 2005-2006. Lo sapevo che c'era la magagna. Già c'è la magagna. Purtroppo abbiamo rallentato in modo drastico, cioè in questi ultimi due anni gli investimenti in Italia si sono praticamente azzerati. Abbiamo fatto chiudere migliaia di piccole aziende artigianali che come mai è successo questo senso. Mercalli, questa partenza che si è bruciata? Perché all'inizio si sono dati degli incentivi perfino un po' troppo generosi, si è drogato il mercato. Abbiamo richiamato anche tanti investitori che non avevano intenzione di fare un favore al clima, ridurre le emissioni, ma solo di fare soldi. E questo alla fine, come sempre, porta da un eccesso all'altro. Si sono poi tirato il freno a mano in corsa e abbiamo sbandato. Cioè, però diciamo che questa droga inizialmente fornita è servita a renderci un po' euforici positivamente. Cioè, goduto di questa droga avendo 8 kW di picco sul mio tetto. Ma no, voglio rassicurare, Mercalli non parlava di droghe per... ma di incentivi al fotovoltaico. Ho già capito, domani su YouTube ci sarà il pezzettino di intervista con scritto esatto. Grazie Luca Mercalli, grazie mille. Grazie. È tutto anche per questa puntata, grazie per essere stati con noi, un saluto e un ringraziamento ad Andrea Piana, Claudio Schiattone, Giovanni Melchiorri, autori, redattori insieme a me di questo programma che va in onda domenica prossima di nuovo con una nuova puntata. Ciao a tutti da Alessio Maurizio.